Radio Tuba. Oh boy, it's really something. It was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked it. Who's communication? Bravo tango, bravo tango. Ci hanno insegnato a ragionare in termini di fiction e non fiction, ma la cosa meno credibile che io conosca è questa realtà. Per guardare oltre non potete fare altro che continuare a seguirci qui su Lezioni Universali di Esistenza. Io sono Mario col maestro Tani e ancora oggi di nuovo... Sì maestro? Buonasera. Buonasera maestro e buonasera all'altro maestro Ricky Gianco. Buonasera maestro Ricky Gianco. Buonasera a tutti signori, buonasera. Torniamo dai fasti della scorsa puntata, dove abbiamo dato una risposta di nuovo all'enigma della memoria dell'acqua, e la risposta è sì, cazzo. E giorni che brindo ad acqua, acqua, acqua, acqua. Non è più un enigma. Non lo è, non lo è. Grazie a noi. Amore. L'amore fa succedere le cose, questo abbiamo scoperto sulle Lezioni Universali di Esistenza, questo abbiamo comprovato. Per sapere tutto quanto, riascoltate le scorse puntate. Ma che cosa dobbiamo dire? Quello che non abbiamo detto la scorsa puntata, ci eravamo lasciati un po' col gatto di Schrödinger, no? Esperimento riuscito, esperimento non riuscito, l'anagrammista che ci scrive, e allora via, dai. Abbiamo... Sì, abbiamo... Fatto i compiti. Settimo Ciripeo è l'anagrammista Giulio Ciripeo VII che festeggia con noi l'esperimento riuscito. Allora, vediamo. L'esperimento dell'acqua riuscito. Dunque, esperimento riuscito si anagramma in ritento speme sui cori. Maestro allarga le braccia e semplicemente abbroncia la faccia con piena soddisfazione e apprezzamento. Sì, grazie. È, devo dire, incredibile anche questa. Incredibile, una grammista in provincia di Bari. Beh, me la ripeti questa un attimo? Sì, subito. È corta tanto. Ritento speme sui cori. Beh. Sbatto i pugni contro il tavolo. Ma per introdurre degnamente questa puntata, ancora un colpo dell'anagrammista, dai, perché dobbiamo dire un sacco di cose bellissime. Abbiamo chiamato apposta Ricky Gianco, allora beccatevi che cazzo ci ha detto l'anagrammista. Senti, destro o sinistro? Senti qua, senti qua, sinistro o destro, tutti e due. Pum, pum. Ci vuole la sigla? L'anagrammista Ciripeo Settimo. Grazie maestro Ricky Gianco, impeccabile. Dunque, l'anagrammista Giulio Ciripeo VII anagramma così. Tiri fuori lo zar infame. Ripeto. Tiri fuori lo zar infame. Maestri, secondo voi di che cosa è l'anagramma questo? Tiri fuori lo zar infame. Oh yes. Ma mi fa pensare, non lo so, a... Razzi infiniti? Bello? No, volendo sì. No, ma non sei lontano. Ma non sei lontano, maestro. Pensa che non sei lontano. Siamo maestri vicini, allora. Siete maestri vicini, vicini. Ratzinger, papato. Razzi il deputato, quello. Tira fuori lo zar infame. Tira fuori lo zar infame. Molto bello. ve lo diciamo dopo il riassunto di due puntate fa. Bellissimo questo epitomo. C'era con noi Mary Cristo Jesus, c'era ancora il maestro Ricky Gianco. Dai, godetevi questi 5 minuti di riassunto e poi tiri fuori lo zar infame. Voglio provare a rispondere anch'io. D'altronde, se il nostro calcolo del tempo si basa sulla rotazione e quindi forse anche sulla velocità di rotazione del nostro pianeta su se stesso e del nostro pianeta intorno a una stella, probabilmente non abbiamo davvero capito un cazzo di niente, no? Buonasera telespettatrici e spelesprefrofi. Siamo qui in un'altra puntata di Lezioni Universali di Esistenza. Meglio di così! Anche oggi con noi ancora un'altra meravigliosa, luminosa stella, il maestro Ricky Gianco. Che vibrazioni altissime! Ciao! Vibrazioni alte trasmesse da voci basse. Possibile? Sì, certo. Cos'è una calotta? Una calotta è una sezione di una semisfera. È il nostro cielo azzurro. Questo l'ha detto un maestro. La calotta celeste, celeste celare. Ma torniamo a Reich e al fatto che piantava l'erba nel deserto. Dove sì, lo ha fatto? Nel Maine, credo sia in America. Al... Che non è proprio il deserto. No, il deserto del Maine, chi non lo conosce? Esatto. Ha funzionato. Hai visto? Abbiamo convinti semplicemente così. Non c'è il deserto. Effettivamente i giganti di ghiaccio non esistono più, quindi Odino ha fatto un ottimo lavoro. Per esempio, per sì, esempio. Sì, sì, sì, è vero. E questo, sì, lui l'ha fatto lì perché poi l'hanno arrestato, gli hanno impedito di costruire macchinari e gli hanno spaccati tutti. Lui ha provato a portarli lo stesso, l'hanno riarrestato e lui al giudice gli ha detto: oh, faccio quello che mi pare, e l'ha arrestato e lì è morto. E più o meno è andato così. E credo che abbia accumulato troppa energia organica nel bacino. Precisamente. Non trovi che ci sia una sopravvalutazione della libido, del kundalini, dell'elemento del bacino, appunto? Allora, sì, ma che bacino, signore. Qua, cioè, l'umanesimo non è l'antropocentrismo. Questo deve essere molto chiaro. Lontani dalla comprensione. Faccio... O troppo vicini per vederci chiaro. E luce fu. Volevo solo, per far capire brevemente cosa ha detto il maestro, con un riassunto, l'energia organica sta all'emozione come la libido sta agli spigoli. Così magari è più chiaro. Lo è meno, ma va bene lo stesso. Ok, il microfono me l'hai aperto, senza le parole, vabbè, tanto sono esperto. Infatti mi tocca parlare a cuore aperto, senza le parole puoi capire un sentimento. Col maestro Tani sai sogovernare il vento, fino a che gli alieni prenderanno il sopravvento. Ma noi staremo fino al giorno dell'avvento. Ottani più Merry Cristo, il nuovo millennio. Sta brillando lì nel firmamento, sto firmando il mento, testa sul cemento. A questi che ci battono però sarà uno scempio. Il maestro Ottani ha un caprofauno nel tempio, e tu non lo puoi vedere ma sorveglio il perimetro e vedo cosa c'è dentro. Il nemico può morire anche senza un lamento, ma strappargli l'urlo è il mio talento. Col maestro Tani che cammina a rilento, stiamo camminando verso un monumento. E noi abbiamo uno animo sporco sacrilego dentro, e io sacrifico il resto. Questo era un incastro non male del resto. Parli dall'energia organica, io la attraverso, e ci posso fare il bagno dentro. Scusate, mi è andato di traverso. Qualcosa, forse un boccone. Forse invece nella gola mi si era accumulato l'orgone. O forse sono solo uno stronzo, un coglione. E come esserlo però, questa qui è una lezione. In piena regola. Denigro, sai che di rime alla fine ne ho una pletora. Sto col maestro Tani, vengo da un altro pianeta e da un'altra epoca. Eccetera eccetera, mi arrampico sui muri come l'edera. De Nigro, se ti vede che stai sulle strisce pedonali preso male, accelera accelera accelera accelera. Faceva ridere più o meno. Faccio l'ultima del maestro, sono l'allievo, come la notte sul cimitero, perché la verità sta oltre il velo. Oltre il velo. Voglio invitare tutti ad approfondire, ma non solo sulla questione dell'orgone. Io vorrei invitare tutti ad approfondire in generale. Scavate più a fondo, scavate, scavate, scavate e dopo seppellitevi. E ricordate di respirare nel plesso solare. Certo, lì, certo. Proprio lì. Vi è piaciuto, maestri, riassuntino? Bellissimo, bellissimo. Le lacrime. Le lacrime, acqua, vere. Acqua dagli occhi, acqua dagli occhi. Acqua da occhi, come acqua. Dicono a Firenze. Era un po' che non li mandavamo, perché abbiamo avuto un sacco di cosine fatte in diretta, musica live, quindi gli epitomi erano rimasti un po' indietro. Li abbiamo recuperati alcuni, prossimamente faremo delle puntate apposite con tutti quanti. E comunque questo epitomo non era acqua da occhi. Allora, c'è l'anagrammista Ciripeo, ha mandato dei segnali confusi, non ho capito bene, cercherò di capire meglio durante la puntata che cosa sta cercando di trasmettermi dal luogo misterioso in cui è. Nel frattempo... È allora, il pianeta degli anagrammi? Forse sì? Anagrammista? Chissà. Chissà. Allora, è il momento, dai, l'abbiamo chiamato da tempo apposta per questo, è un argomento veramente importante, io faccio questo. Allora, metto un audio che gli ho chiesto di mandarmi qualche giorno fa per introdurmi alla questione, della quale veramente ho cercato e nulla ho trovato. Abbiamo già detto alcune puntate fa che il mondo anglofono, se non ricordo male, assieme a pochissimi sparuti canalizzatori stanno trasmettendo qualcosa dell'argomento. Non c'è altro, non si trova, è tutto molto nascosto, eppure è un argomento così totale e omnicomprensivo che è assolutamente inignorabile, propedeutico, come ha detto il maestro Ottani qualche puntata fa. E allora affrontiamolo subito. L'anagramma, com'era? Lo zar. Sì, quello dello zar, non lo ritrovo. Inaspettatamente. Infame, quello lì, era l'anagramma di fuori. Mafia Kazariana. Yo Salabas! Il connato d'oro! Va bene, allora sentiamo che cosa mi ha detto il maestro Ricky Gianco. Lo rintroduco, anche se qui in diretta, con le sue stesse parole che mandommi qualche... Doppia emozione. Due giorni fa, ieri ieri l'altro. Quadruple. Poche ore or sono. Sentiamo, introduzione alla mafia casariana. Attenzione tutti, eh. Vabbè, brevemente, Marchino, i Kazariani, mafia kazariana. I Kazariani intanto erano abitanti delle steppe un po' mongoli, un po' venivano dalla Sassonia, quindi territorio germanico, era gente che combatteva a cavallo, aveva armi, tagliava gole, era in un territorio strategico che andava dal Mar Nero al Mar Caspio fino al Mar Baltico su a nord. E quella terra era attraversata dal commercio fluviale degli egiziani, dei greci, degli arabi, quindi c'erano un botto di risorse che passavano da quelle parti. Questi razziavano i Kazariani, tagliavano gole, facevano man bassa di tutto, quindi rubavano e facevano schiavi. Erano degli schiavisti, quindi tutti quelli che derubavano poi li trattenevano e li schiavizzavano e li commerciavano, quindi erano mercanti di schiavi. Si vanno a unire a questi Kazariani quella fascia di ebrei che si sposta su nelle terre loro, e questi ebrei che si uniscono a loro sono gli Anakiti. Sono quella fascia, quel ceppo ebraico che è stato costretto a diventare ebraico perché erano degli assassini, anche loro truffatori e banchieri soprattutto e strozzini, e con la violenza ottenevano i denari che poi prestavano e soggiogavano gente. E sicché vengono tipo cacciati, si uniscono, vanno su nelle terre del nord perché sapevano che c'erano ricchezze, si uniscono a questi banditi e ciao. Formano praticamente un altro ceppo religioso, perché anche lì vennero costretti da Ivan il Terribile, che li praticamente li fece scappare dalla loro terra perché facevano disastri a diritto questi. E prima di essere sconfitti però da Ivan, avevano già intramato in tutte le banche più importanti, quindi si erano già trasferiti in Inghilterra, avevano un botto di soldi questi e commerciavano schiavi. Quindi fai conto che dal 300 fino al 500-600, quando sono stati spazzati via dalla regione kazariana, questi Ashkenaziti diventano praticamente Ashkenaziti, perché dopo essere stati cacciati vengono costretti ad associarsi a una religione e scelgono quella ebraica, dove poi fanno convergere tutti i loro credi satanici, perché erano seguaci di Baal. Baal era un dio violento, sanguinario, a cui loro offrivano sacrifici umani. E quindi queste pratiche loro le hanno sempre tenute in ballo, perché erano prima antichissime e potentissime, quindi gli conferivano della conoscenza che li ha portati ad essere il World Economic Forum. Parliamo di famiglie come Rockefeller, Rothschild, tutti quelli che sono alla base della finanza contemporanea, soprattutto nel mondo anglosassone americano. Basi, radici profondissime in Inghilterra, in Svizzera e in America. Quindi sono quelli della CIA, sono quelli della NATO, sono quelli dietro all'OMS, sono questi grandi signori qui. Viene fuori la loro storia oggi perché appunto se ne vedono i coinvolgimenti orribili. Quindi mercanti di schiavi, satanici, offerte umane a questo Baal, pratiche antiche babilonesi. In pratica sarebbero i discendenti degli Elohim, dei giganti, che erano prima gli Anakiti, che poi insieme ai Kazariani sono diventati gli Ashkenaziti, e discendenze rettiliane, a quanto dicono le voci di corridoio. Comunque questo è quanto, il riassunto è questo, e ovviamente sono anche alla base del Vaticano. Il nostro amico gesuita che ha il potere è coinvolto direttamente in tutte queste macchinazioni contro l'umanità. Si vede anche nell'operato del Papa. Quindi questo è, dei truffatori abili e scaltri che hanno praticamente messo in ginocchio l'umanità. Guerra fondai, e quindi ce li abbiamo anche al Maier. Non so se hai sentito questo Carrai, vabbè, notizia di questi giorni. Ieri c'era un presidio, non c'entra un cazzo, ma c'entra tantissimo. Cioè, ce l'abbiamo in casa questi, qui in Italia, qui a Firenze e a Roma c'è una bella radice di potere loro, antica. Anche le famiglie dei Pallavicini sono antiche famiglie di fottutissimi kazariani mafiosi askenaziti e tutto, sì, insomma, sono i, come cazzo si chiamano, ora te lo dico, i massoni, la fascia oscura massonica. Va bene, questo è tutto, grazie, ci si vedo. Nomi e cognomi. Nomi e cognomi, caro maestro Ricky Gianco, invece c'entra tantissimo il nome di Carrai e il presidio che c'è stato lunedì. Allora, non vogliamo togliere altezza, diciamo così, alla trasmissione, però ricordiamo velocemente che c'è una raccolta firme in corso contro a Carrai, che è direttore dell'ospedale Maier, nonché console israeliano per Toscana e Emilia Romagna, uno degli uomini forti di Renzi, colluso con varie industrie delle armi, del tabacco. Insomma, ci sono degli articoli sul Fatto Quotidiano, su Open, che approfondiscono tutto questo, potete cercarli. Lunedì il presidio a cui fa riferimento Ricky Gianco è avvenuto davanti al Maier, quando centinaia di dipendenti del Maier hanno riportato gli ombrelli che erano stati regalati per Natale in dissenso contro la presenza di Carrai dentro all'ospedale, come direttore amministrativo dell'ospedale Maier, proprio per le sue dichiarazioni, non solo che non si sono mai levate a sostegno dei 10.000, quasi 12.000 bambini palestinesi morti, o anzi addirittura su Facebook ha fatto, i social ha fatto delle dichiarazioni a sostegno dell'intervento israeliano, non c'è una presa di posizione contro tutto questo, malgrado tutte le organizzazioni umanitarie lo denuncino. Seguite pure, c'è una raccolta firme, voleva arrivare a 10.000, le ha già raggiunti, ha rilanciato, ora l'obiettivo è 15.000, è su change.org, la potete seguire. Una piccola parentesi per dire quanto cazzo c'entra, c'è vicino e è attuale tutto questo. Alziamo la base un secondo. Si chiama Marco Carrai, console onorario di Israele, non può essere presidente della fondazione Maier. Questo è il titolo della petizione su change.org, le firme, tutta la documentazione la potete trovare direttamente lì. Ma torniamo alle grandi, gigantesche questioni che ci sono state sollevate. Incredibile come comunque prendiamo dalla notte dei tempi fino a dietro l'angolo, passando per tutto c'è in questa narrazione che ci hai fatto, maestro Ricky Gianco. Puntualissima, però totale anche. Lascia un po' perplessi, sì, perché sembrano tutte storie molto affascinanti, lontane. Quando invece... Ma lontane, insomma, 1300, 1600 sono sì, son date dal 776 comunque... in pratica hanno scritto l'agenda, hanno preso potere nelle banche. 1776, amici, quindi hanno della Costituzione, sì, della dichiarazione, sì, esatto, di indipendenza sì, americana. Sì, quindi... Perché lì volevano, d'altro canto, mettere le basi per una libertà si sono trovati imminente, invece no, si può dire che ha preso corpo lì, cioè sì. Dico, si può dire che si sono trovati un come dire, uno stato per loro, una sorta di base noi operativa. Siamo l'humus, noi umanità siamo l'humus, se non consapevoli diamo tanta energia. No, ma dico nell'ambito proprio degli Stati Uniti, sì, lì c'era la terra fertile. Insomma, cioè anche di nessuno, tra virgolette. Sì, hanno rilanciato la moneta fiat, insomma, hanno fatto saltare un po' i mercati. Loro giocano. In realtà, diciamo che è tutto un gioco, no? E quindi, giocando, potremmo scoprire le regole del gioco, svegliarci e decidere di non giocare più. Certo. Cioè, ma la visione che viene proposta è quella che il professore, che ormai torna frequentemente davvero in queste puntate, alludo al professor Malanga, chiama l'immagine della gabbia. Noi siamo in gabbia e i padroni della gabbia sono degli uomini, che sono gli uomini al comando del mondo oggi. Privi d'animo. I quali, tuttavia, sono a loro volta subalterni, diciamo così, rispetto a dei padroni maggiori che hanno. Sono eseguono. I cani... infatti, giusto? Sì, è sì, corretto. Sottomissione, tanta... Ma quindi seguono, cioè i potenti del mondo, d'animo. I potenti del mondo non sono i veri potenti. Ovviamente no, ci sono, sono orchestrate tutte queste dinamiche, quindi non possiamo far altro che scoprire le regole del gioco. Certo. E smettere di far parte di quel gioco è svegliarsi, capire l'acqua come reagisce all'amore e all'odio e smettere di preoccuparsi e abbassare le frequenze con paura e odio. Ma quando dicevi eseguono per conto di chi? Sì, bravo. Abbiamo i burattinai, possiamo immaginarcelo, senza confini, qui parliamo anche senza filtri, quindi parliamo di rettiliani, gli Elohim. Perché te gente che volava quando noi zappavamo. Certo, ma nell'intervento audio che abbiamo sentito prima, sì, fai riferimento precisamente a una genealogia vera e propria. Sì, allora gli Anakiti sono in realtà i figli degli angeli. Gli angeli erano gli Elohim che si sono accoppiati con le terrestri. Questo c'è scritto. E gli Anakiti derivano gli Anakiti sono gli ibridi, figli delle donne terrestri e degli angeli. Ma gli angeli non erano altro che altri uomini con tecnologie che gli permettevano di volare e ai nostri occhi diventavano angeli. Erano dei soldati. Io annuisco, lo dico insomma per chi non mi può vedere, io lo annuisco, sì sì certo, mi torna tutto. No, io ho due domande, una, allora, prendiamola da qua, mi hai un po' già risposto adesso dicendo... Prendere coscienza, sì, capire l'acqua. Lì. La mia domanda è quella a cui stavi rispondendo, però che fare? Cioè, cosa fare di fronte a ma questo? Il fare è molto relativo, dipende poi dalla posizione tua, giusto, che occupi nel tuo quotidiano. Il fare che possiamo praticare liberi, intanto respirare consapevolmente nel plesso solare. Consapevolmente nel plesso solare. Intanto consapevolmente ringraziare, togliere stress, preoccupazione, e l'aria non ci viene tolta se ci mancano i soldi per pagare la bolletta. Cioè, capite, non... il meccanismo è quello, è una abbastanza evidente ma sottile. Portano via le energie, vibrando basso noi usciamo dall'armonia e non interagiamo più col niente e facciamo come il riso nella bottiglia dell'odio, ci isoliamo da tutto. Maestro Ricky Gianco, non ci porti cresciamo. Una strada di altrove, in sostanza di dentro, circondati. Il vero altrove è dentro, non è fuori. Circondati se, da dentro, sì. Dentro di sé, dentro sì, dentro. Dentro. Certo. Altrove rispetto al... altrove rispetto al le dinamiche al quotidiano, sì. E le sue dinamiche di paura e preoccupazione, sì. Circondati da vicini all'interno dei nostri appartamenti eppure così lontani, mi viene da dire. Vicini sconosciuti. Sconosciuti, esatto, non così vicini. Allora, ho un'altra domanda io però. Il professore, siamo sempre lì, il professor Malanga da qualche parte ha detto che c'è una differenza fra la massoneria interna stessa, cioè non è un monolite. Questa, allora... Egli stesso sostiene la provenienza rettiliana della massoneria, la quale a sua volta governa il mondo. Ci sono due fazioni, sì. Deva e... Ecco, gli io altri, di questo, Arsu, Asuria... Asura, sì. Asura sì. E Deva. E Deva. Io volevo chiederti di questo perché... sono comunque storie, possiamo dipingerli come vogliamo, li vogliamo chiamare palestinesi e ebrei, americani e russi. Ma sono allegorie, simboli, oppure... Fazioni. Oppure fazioni reali, potrebbero nel essere senso... pura fantasia, io non ho mai incontrato uno. Ma gli, sì. Asura, gli Asura e i Deva, cioè, domanda per esempio, quindi gli Anakiti, sì, stanno con gli Asura o con i Deva? Repubblicani o democratici credo si scambino senza si scambiano problemi. Senza problemi. Hanno due obiettivi principalmente, quello di tenere sotto scacco l'umanità coperta da veli, velando quindi tutto quello che siamo e il potere che abbiamo, e usare le energie di bassa frequenza che mettiamo nella preoccupazione di perdere il lavoro, di perdere la vita, di perdere la macchina, di perdere la patente, di perdere, ci tengono lì. Se io emetto basse frequenze, cammino con la testa bassa, la mia acqua è fuori armonia, io sono fuori armonia e loro godono tantissimo. Però maestro Ligianco, non è facile in un mondo così corrotto tutt'altro emettere frequenze alte e non farsi corrompere il fare dalla è molto personale, Molto personale. Capire vuol dire fare luce là dove c'è buio e piano piano riuscire a far penetrare sempre più luce in questa oscurità. Mi fa come pensare si fa alle con stelle. La conoscenza. Mi fa pensare alle stelle che poche e singole vincono l'oscurità della notte. Siamo potentissimi. Ora, se volete consigli sul fare, ce ne sono quanti ne volete, di approcci meditativi, consapevolezza nella respirazione, ringraziare ogni quarto d'ora invece di fumarsi la sigaretta ogni 2 ore di lavoro. Vai fuori e oltre alla sigaretta e al caffè ti fai 10 minuti di respirazione consapevole. Ma questa ultima domanda ti vorrei fare, ma la proposta che dai è quella non di una lotta a contrapposizione frontale, ma di una ricerca di una... Con te stesso. Sì, con sì, te stesso, non con... L'unico nemico sei te. Dopo che hai capito cosa c'è che non va, il problema non è fuori e dentro. L'unico potere è in mano nostra, non è in mano loro. Loro suggeriscono, il diavolo suggerisce, non ha mai imposto un cazzo di niente. Io posso dire sì o no, ma se ho paura non sono libero di rispondere. Ma senza paura non saremo più assoggettati? Allora, paura. Parliamo di timore, perché paura sì, è più sì, legata sì. al... Senza insomma, timore, non saremo, saremo davvero saresti molto più libero libere. E brilleresti di più, è come se tu velassi una fonte di luce. La vedi, ma la vedi velata. E questo sarebbe in ogni caso prioritario rispetto a qualunque altra... È l'unica via d'uscita, brillare sempre di cioè, più. In questo senso, brilliamo. Quindi, in questo senso loro se ne andrebbero in qualche ma modo. Ma potrebbero anche rimanere, ma potere zero, ora ne hanno veramente troppo. Cioè loro hanno fatto il loro gioco. È e come hanno, se e ci fossimo vinto. Messi d'accordo. No. No. No, se no non saremmo qui. Mm. No, scusa, se avessero vinto... Non hanno vinto, il certo controllo, maestro. Il controllo sarebbe totale. Cercano stanno di, vincendo ma... però. Però se se riescono allora, a utilizzare la nostra terreno, energia... Se prendiamo terreno basta poco, noi in un attimo se prendiamo terreno stiamo li fulminiamo, siamo noi il potere, non sono loro, ne vogliamo parlare al momento. Ora tutta la rivoluzione, la cronaca cioè, di oggi dice che in Germania Berlino è bloccata, fanno dagli agricoltori, sì, in Francia uguale, insomma vogliamo parlarne. Consapevolezza vuol dire svegliarsi e io non dipendo più da nessuno, non mi devono dire come e cosa fare, non possono più dirmelo. Cioè dopo che mi hai suggerito che non mi alzi lo stipendio e mi alzi le spese di tutto, tu mi imponi di, ma poi il resto lo faccio io, posso anche seguire i tuoi condizionamenti e rimanerne bloccato a vita. Gnote Seuton, caro maestro Ottani, siamo sempre lì, non so se lo pronuncio bene ma... In greco mi pare lo dicessi. Era una citazione bellissima. Bella, vero? Conosci te stesso, tipo. Conosci te stesso. O quel passo o il nulla. Siamo quasi al bivio in realtà. È il sole, è la consapevolezza sull'acqua, il quarto stato, le scoperte, scava, ci rimani sotto, trovi gli scheletri. Rileggi i testamenti, scopri informazioni in più, ne parlano tutti. E noi da parte nostra vi invitiamo alla luce. E ne parliamo anche noi, vi invitiamo alla luce, sì. Consapevolezza. Vi invitiamo alla luce dalla luce. Ma se per caso aveste voglia di passare dalla tenebra, vi chiedo di andarmi a prendere una cosa che ho lasciato. L'altra volta ti ho chiesto, hai preso tutto, mi hai detto sì tre volte. Sbagliato. Io non ci torno là sotto. Sentiamo un pezzaccio e pensiamo, altissimamente pensiamo. Wow. Ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Wombat, sono solo. È successo che i maestri si sono un attimino persi nelle loro conversazioni sulla mafia casariana, che io capisco che veramente abbia delle cose che non possiamo, malgrado tutta l'opera di svelamento della verità che compiamo su questa trasmissione, dire al microfono. lo sappiamo, ve li accendo, lo sappiamo, eccoli qua, lo sappiamo che ci sono alcune cose che non possiamo dire e loro le stavano dicendo in corridoio. Tempo al tempo però, ci voci arriveremo. Di corridoio. Quando sarete pronti ci arriveremo, un passo per volta tutto sarà detto, niente sarà tenuto nascosto, non qui. Vedo che ti stai accarezzando il pizzetto, caro maestro Ottani. Un sacco di domande per il maestro Ricky Gianco, sinceramente. Una sola. Una tra tutte è questa. Mi domandavo, quando i casariani hanno scelto di aderire alla religione ebraica, in qualche modo anche per nascondersi o per confondersi... Sono stati costretti. Costretti? Sì, perché assediati hanno dovuto... concedersi a un credo. Ma gli ebrei perché come l'hanno presa questa cosa? Ma lo zar li ha costretti, gli ebrei non hanno potuto far altro che dire ah, ci sono anche loro. Ah, ok, okay. Ci sono i sefariti, sono il ceppo ebraico più numeroso. Certo. E gli ashkenaziti lo sono diventati, ma sono i nazisti veri. Cioè hanno in realtà... cioè, ne parlava Malanga, sono in un villaggio in Germania, è quella casa loro in quanto pare. Sono radicati lì, sì, hanno sì. Le roots lì. Sì, esatto. Okay. Ora ci sono riferimenti, nomi, non voglio... No, tempo al tempo. No. Abbiamo già detto che in Romania andremo a vedere le tombe dei giganti nascosti nella galleria 13. Scava. Dopo di quelli andremo a scavare da qualche altra parte, già che andiamo verso nord, le nostre gite Erasmus. Si mangia male però lì. Sì, si sa, si porta i bucatini da casa. Molto bene, molto bene. A prossime puntate, comunque, prossime rivelazioni sulla mafia casariana, perché noi ci rendiamo conto dell'enormità dell'argomento che vi stiamo proponendo. Lo stiamo un po' lasciando anche decantare qua per qualche tempo. L'abbiamo accennato, oggi l'abbiamo affrontato di petto. C'è altro da dire, ma tempo al tempo. Veniamo, insomma, procediamo un passo per volta, ecco. È il modo giusto, è il modo giusto. Sì, ci prendiamo del tempo, consapevoli del fatto che comunque il tempo non esiste, o quantomeno è una proiezione della nostra fragilità. Lineare. Caro maestro Ottani, per questo ultimo spezzone di trasmissione, che cosa sta per succedere? Perché io ho due basi pronte. Una pronta nel caso in cui vuoi rimanere in quella rubrica che hai provato a accennare dopo aver fallito la prima rubrica sulle cosmogonie per arrivare a quella sulle note musicali, c'è fatto il fa. Oppure, boh, come sempre, c'ho questa base pronta. Allora. Perché te mi hai mandato un'altra roba che c'è scritto questo. Sì, no, parleremo. No, ho capito. Ascolta, io ti dico che cosa mi hai scritto. Te mi hai scritto questo. Mi hai scritto: torture psicologiche e Gatorade in vena. L'inquietante storia della setta Final Fantasy. Ora, parliamo del Gatorade in vena e dell'inquietante storia della setta Final Fantasy o della nota Do, mio caro maestro? Allora, effettivamente, se la metti su questo piano, è estremamente più interessante il Gatorade in vena. Non posso che... No, non lo so. Allora, se scegli quella, devo mettere la base adatta. Dimmi te, vado per quella? No, allora, il fatto è questo. Devo essere sincero, sul Gatorade in vena... ho avuto tanta curiosità e tanto interesse, mi sono preparato poco, ma se ne parla se volete. Altrimenti sul Do comunque me la cavo. Scegli tu. Ti vuoi godere una rubrica nota? Allora parliamo del Gatorade in vena. Io non pensavo che sarebbe stata la base più trasmessa di questa seconda stagione, però lo è stata perché forse una puntata non l'abbiamo mandata. Alienas. Vuole andare a fumare? No, volevo andare invece a prepararmi. No, è che gli è finito il Gatorade in vena. Sì, la flebo è finita, devo cambiare. È finito. We are punk, come dice la base, perché stiamo facendo cose punk. Tutto imprevisto, sbagliamo sempre la scaletta, cambiamo all'ultimo minuto. Molto bene, molto bene. Come resistere al Gatorade in vena? Chi potrebbe? Dopo il Vril, il Gatorade è la nostra seconda bevanda preferita. Ma hai provato con un po' di Red Bull? No, allora, guarda, è una storia clamorosa questa qui. Praticamente siamo... stiamo parlando di un fenomeno che è quello del fandom, o quindi questa sorta di pletora di persone, di appassionati di cosa? Di un videogioco, di un libro, di non so, un film, qualsiasi cosa, sì. Che creano questa base di appassionati e che vanno a scavare in qualsiasi anfratto di questa creazione, di questa produzione. Quindi, non lo so, mi viene da pensare ai fanatici di Star Wars in sì. questo senso, oppure del Signore degli Anelli, o che ne so, di altri tipi di lore proprio, di, uso questo termine anche un che po'. Che vuol dire universi sì, immaginari? Ma quindi... Universi immaginari dove magari appunto sono stati prodotti diversi libri, ok? O diversi, oppure un videogioco, un libro, un film, tutti accomunati, accompagnati sì, dalla con stessa... tanto di cene a tema, vestiti a tema. Volevo proprio arrivare lì, volevo proprio arrivare lì. Mi stavi proprio... Ho il costume dietro, esatto. Volevo proprio arrivare lì e quindi appunto questi appassionati che spesso si ritrovano anche a fare esperienze sì di cosplay, assolutamente, o di gioco di ruolo, quello che tanti, come dire, conoscono già, ma che esiste in svariatissime forme, da quello più classico alla Dungeons and Dragons con scheda alla mano e dadi multifacce, a quello che è magari l'ARP, che è una, come dire, già evoluzione in questo senso, e si tratta di fare la stessa cosa però dal vivo, e quindi interpretando. È quello di cui abbiamo parlato con come si chiamava? Con Dottor Bleso? Sì, è quello lì. Ne abbiamo parlato con Dottor Bleso, ma in quel caso stavamo parlando principalmente di PNG, di NPC in inglese. Una cosa, un aspetto molto particolare del gioco di ruolo che riguarda quelli che comunemente nei videogiochi, per farla breve, sarebbero i personaggi controllati dal computer. Che ogni volta che ti ci avvicini si relazionano a te sempre nello stesso modo. Sì, più o meno dicono sempre la stessa cosa. Infatti solitamente quelli non sono veri e propri PNG come all'interno invece del gioco di ruolo classico, ma quelli sarebbero più che altro dei bot, dei sì. come dire, sì. Questa me l'ha suggerita sì. l'anagrammista, se posso. I bot. Dei bot. Anagrammista ha un sacco di competenze. Un sacco di competenze. Incredibile. Studiano di là. e appunto, e quindi questi, come dire, la differenza appunto è che il PNG in realtà dovrebbe avere anche una sua personalità, una sua, in qualche modo, un suo carattere, una sua cosa così. Però perché tutto questo antefatto, sì, sì, perché sì, tutto sì. questo discorso? Per arrivare a Final Fantasy VII, che io conosco come videogioco. Non ci ho mai giocato tanto, però conosco un sacco di persone appassionate, soprattutto di una certa generazione, alla quale ha fatto effettivamente, evidentemente, un grande effetto. Mi viene anche da pensare perché ha introdotto tutta una serie di dinamiche all'interno del gioco che effettivamente prima di allora erano forse impensabili all'interno di un videogioco, e anche per la trama, probabilmente, perché è estremamente avvincente, con un sacco di personaggi. Io parlo più per sentito dire che effettivamente per esperienza personale, quindi non so bene, però ha avuto un grande seguito, forse troppo. Tanto che c'è della gente, se ho capito bene così, che per somigliare ai personaggi del fumetto, videogioco, cartone o quel che è... No, videogioco, in questo caso videogioco. Non so niente io. Di Final Fantasy... Ma in cosa... Scusa, una domanda prima. Sì. In cosa, cioè, qual è la storia di Final Fantasy? No, non la conosco. C'è un personaggio, bene, non la conosce nessuno. Non la conosco bene, sinceramente. Mi piace soltanto come sono disegnati. Si riscrive, esatto. Non la conosco bene, sinceramente, però mi sembra che sia ambientato all'interno di quello che dovrebbe essere il nostro mondo nel futuro. O non lo so, in un futuro dispotico. Sì, o forse qualcosa, una sorta di universo parallelo, non lo so. Dove come dire, si mischiano elementi sia estremamente fantasy che cyberpunk, che come dire, di questo tipo di estetica, di mondo, ecco. È disegnato alla maniera giapponese dei manga, e quindi penso sia, ed è un prodotto estremamente, cioè che nasce in Giappone comunque, sì. è di matrice giapponese, sì sì, in questo senso. Ora, allora, ci sono delle persone che per somigliare ai personaggi del videogioco Final Fantasy si sparano indovina il Gatorade. No, non è questo. C'è stato praticamente un episodio, in realtà, più episodi, che sono durati, si sono dislocati negli anni, ecco, e a partire sin dall'inizio degli anni 2000, proprio sì, dal 2000-2001, fino ad arrivare al 2010-2012, se non sbaglio, 2013 mi pare, dove praticamente quelle che... allora, dobbiamo cercarci anche di immaginare, come dire, l'ambiente del web, quella che era la community di internet, all'inizio degli anni 2000. Ora, per alcuni di noi può essere abbastanza semplice perché se la sono vissuta come età, ma per altri no, effettivamente. Era un'epoca, per esempio, quella di quel tipo di internet, in cui era molto semplice, molto più semplice di oggi, restare anonimi. Crearsi un nickname, che a quel punto aveva anche un'importanza molto maggiore, perché era il nome che ti eri dato tu e che tutti gli altri riconoscevano all'interno di quella community. E in qualche modo riusciva, secondo me, anche ad intercettare quelli che erano dei malumori o dei moti adolescenziali di non sentirsi appartenente a qualcosa. E in quel caso, appunto, riusciva ad intercettarli e a... O forse anche la volontà di giocare con l'identità. Assolutamente. Cioè proprio il piacere di reinventarsi e... Sì, sicuramente di avere quel potere anche da tutti i punti di vista, il nome, i poteri, il genere, sì. Tutto, insomma. Potevi fingere effettivamente di essere un'altra persona anche da questo punto di vista e fare un gioco di ruolo, quindi sì, in questo senso. A tua volta. Però non era qui che volevo arrivare, era piuttosto sul discorso che all'interno di queste fan community su internet, come dire, dove si riunivano tutti questi esponenti della fandom, per l'appunto, i rapporti certe volte, se diventavano, come dire, abbastanza saldi già nella rete, potevano andare al di là della rete, no? Anche. E quindi... Che in apparenza sembra un fatto positivo. Se dall'altro lato della rete non c'è uno squilibrato, chiaramente. Lo psycho. Se non che... E in questo caso stiamo parlando appunto di alcune figure in particolar modo, di una figura forse in particolar modo, tale Jen. In questo caso la chiameremo Jen, ma probabilmente non è il suo vero nome, anzi è il nome che ha scelto, che utilizzava, che ha in qualche maniera, attraverso forse una qualche forma di manipolazione o chissà, andando proprio a... come dire, a intercettare quelle che erano delle debolezze di alcuni individui all'interno di questa fandom, è riuscita ad intercettare appunto alcuni di questi grandi esponenti della fandom e di conoscerli al di fuori e di iniziare con loro questo strano gioco che ricorda da un lato il gioco di ruolo, ma sembra una cosa molto più... come dire, immersiva del gioco di ruolo, perché si sta infittendo la cosa, infatti non riesco a passare, permesso. Si sta infittendo, perché il gioco di ruolo, noi, come dire, sia chi l'ha fatto che non l'ha fatto, si immagina comunque sessioni da 4-5 ore. Se fate sessioni da 10 ore siete anche un po' dei sadomasochisti. Jen faceva delle sessioni, sì, secondo me anche un po' di anni H24. Esatto, in questo senso, senza fine. Trovando comunque dall'altro lato persone molto disposte nel fare questa cosa, però forse non pesantemente e violentemente come faceva lei. Lei arrivava a ricattare, a costringere delle persone a usare violenza fisica e verbale nei loro confronti, per mantenere alto il, come dire, la veridicità del gioco, anche in un certo senso. Ora, chiaramente loro avevano preso come sfondo e come lore Final Fantasy, però poi ad un certo punto, quando viene scuccata fra il resto, e lei fa una roba che oggi è quasi impensabile, cancella tutte le tracce di se stessa dal web per non essere più rintracciata, dopo fa lo stesso giochino in realtà all'interno di un'altra lore e con un'altra fandom, quindi evidentemente il problema non è Final Fantasy, il problema è Jen. Il problema è Jen. Sì. E in questo caso stiamo parlando di una serie, per esempio, quindi nemmeno un videogioco, che aveva a che fare con, se non sbaglio, vampiri, o come sfondo, diciamo. E addirittura c'è un episodio molto particolare in cui una sua amica va a una come dire, un convegno dove ci sono anche gli attori di questa di questa serie, e mette e fa una domanda a un attore mettendo in viva voce Jen, che stava fingendo di essere uno dei personaggi della serie, e si rivolge a questo attore chiamandolo col nome del personaggio che stava interpretando. Dice che questo attore si è indispettito, cioè non gli è piaciuta questa cosa in quel momento, perché effettivamente è un po' spiazzante, se non strana. E quindi niente, tra le pratiche che riguardavano il cercare di rendere molto più verosimile l'esperienza, c'era anche quella di lei dice, c'è questa testimonianza che dice praticamente aggiungeva il Gatorade verde all'acqua, agli alimenti, e ad un certo punto aveva pensato anche di iniettarlo, evidentemente, perché aveva fatto richiesta, aveva chiesto tipo una fornitura di siringhe piuttosto importante. Quindi no, ho trovato un vero maestro di questa Jen ora mentre dicevi, infatti, che fra l'altro lei faceva immergere le persone in vasche da bagno piene di Gatorade verde, e di Gatorade verde, esatto, per ricreare anche degli scenari, sì, che rappresentava il flusso di energia di cui si ricaricavano i personaggi, questa sostanza che è descritta all'interno del videogioco, ma che, come dire, non ha riscontro nella realtà. C'è qualcosa di questa gen comunque in rete, caro maestro? Tipo ad esempio il fatto che lei costringesse alcune persone che si erano avvicinate a lei, siccome nel gioco erano personaggi che erano fidanzato e fidanzata, dopo che si erano interfacciate a lei singolarmente, senza conoscersi, lei li costringeva a fare sesso l'un con l'altro. Faceva di queste cose, o comunque tentava di costringerli, di manipolare le loro vite in questo senso. Accidenti, questa gen comunque. Ma la cosa assurda è che è riuscita a fare non una volta, ma due volte questa famosa DPA, o non so come la chiamano gli anglofoni, questa quindi totale cancellazione di ogni traccia di sé da internet. Cioè, una roba da CIA comunque, ragazzi, oggi più che mai. Effettivamente l'ha fatto forse in un'epoca in cui era ancora un po' più semplice che oggi. Oggi vi sfido. Ma sai dire che fine ha fatto questa gen? Così come magari ci ha detto il paleolinguista la scorsa puntata. Allora, Jen è adesso è ancora intrappolata all'interno di una di questa fantasia inesauribile. Il problema è che, come dire, lei non è tra noi. Ok, letteralmente. Ecco qua. Comunque in nessun modo vogliamo, cioè, avvalorare il comportamento di Jen in questo senso, anzi. No, ma io ti chiedevo all'inizio il fatto che se si iniettava indovina, perché qualcuno mi disse che c'è della gente che in giro per il mondo fa tipo il culturista, però sono poveri, e allora per gonfiarsi i muscoli, non potendosi permettere le sostanze costose, si iniettano l'olio di semi di girasole. Sì, questo è rischiosissimo, ma non solo. Ma edotto di questa edotto di questa cosa. E io ho visto, ho sentito anche di gente tipo in Sud America che faceva pratiche di questo tipo con altri tipi di sostanze anche. Ragazzi, ma cioè, siete fuori di testa. È tipo quella volta in cui Trump, quando c'era il Covid, ha consigliato di iniettarsi indovina la candeggina, e tipo 13 americani, sì, ci hanno provato. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno c'è anche morto forse, sì, qualcuno se l'è fatto. Qualcuno l'ha fatto. Io, qualcuno potrebbe dire selezione naturale. Non saremo noi maestro, non noi, non adesso, non adesso, mettiamo la base, dai, trattieniti. Ragazzi, chi ha un po' di candeggina? Solo Vril qua, Vril. Il pediluvio col Gatorade si potrebbe fare prima di andare a letto. Almeno non ti metti la candeggina in vena. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Wombat, stiamo per salutarvi, ma prima, ora sto per chiedere un saluto ai maestri, ma prima vi ricordo che questa lezione universale di esistenza va in onda ogni due settimane, ogni mercoledì sera alle 21. Nel frattempo potete contattarci, proporci argomenti, farci domande o quello che volete su postawombat@insiberia.net. Sul sito c'è anche la messaggeria del Wombat, dove potete mandarci dei godibilissimi audio che noi ritrasmetteremo in trasmissione. Nel lasciarci vi domanderei un'ultima parola, un saluto, un congedo e prima di tutto da parte mia un grazie per essere stati qui con noi, o cari maestri. Qualsiasi cosa tentiate di occultarmi, grazie. Io sono rimasto senza parole, c'è il... nulla, ho perso anche l'acqua. Ma il Gatorade è rimasto quello? No, è finito anche quello. È finito anche quello. Tutto in vena. Sì. Pace e amore. Pace e amore a tutti. Pace e amore a tutti. A fra due settimane. Lunga vita Radio Wombat. Abbasso il vile principe Giovanni. Senza terra. No lens. No future. No future. Tons of this earthly delight. Yes, to ship the few tons. gun, this land is still seen and still alive. Away for a commerce where vast fortunes were made. The supply of an empire where the sun never set, which is now deep in darkness, but the royal way's there yet. Navigator, navigator, rise up and be strong. The morning is here and there's work to be done. Take your pick and your shovel and a bowl of dynamite. Burn a ship, a few tons of this earthly delight. Yes, to ship a few tons of this earthly delight. We got it, we've lost it. Who's the occasion? Bravo Tango, Bravo Tango.